vabbè, bellissima questa versione di una mitica canzone, appunto Stalingrado degli Stormy Six, fame, macerie sotto i mortai, come l'acciaio resiste la città, strade di Stalingrado, di sangue siete lastricate. È l'inizio di un album mitico, Un biglietto del tram, che usciva proprio 50 anni fa, nel marzo del 1975, per il trentesimo, in occasione, bene o male, del trentesimo della liberazione dal nazifascismo, spesso suonata unitamente dagli Stormy Six alla fabbrica in una specie di mini suite. Tra l'altro la musica riprende il giro di accordi di Palestina, un brano che paragonava la lotta di Al-Fatah alla resistenza partigiana, scritto da Umberto Fiori, leader insieme a Franco Fabri degli Stormy Six, per la commissione artistica del movimento studentesco milanese. Eravamo nel 1973. Banzo, Stalingrado e soprattutto Un biglietto del tram ci accompagneranno in questa ora di Zibaldone di questo 25 aprile 2025. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, e infatti la puntata si intitola 50 biglietti del tram, e con la tua introduzione già si capisce perché mi hai bruciato la possibilità di fare battute sul fatto che avremmo parlato di iniziative della Consiglieria dei Trasporti di Barcellona per la mobilità sostenibile, cose di questo tipo, ma forse è meglio così, perché parliamo di, probabilmente, di della, non lo so, dell'opera più importante su questo tema nella storia della musica italiana e di un disco fondamentale della nostra musica pop in una data fondamentale, perché appunto il disco Un biglietto del tram, che però a marzo 75 credo Steven sia stato solo registrato, un album che appunto descriveva la resistenza, e ovviamente arriva fino alla fine della lotta partigiana in un momento storico con quello della metà degli anni 70, diciamo. Ci si potevano trovare molte più eco sicuramente di quanto non si possa fare adesso con i fascisti al governo. È un album del quale si potrebbe dire veramente qualunque cosa, ma non voglio farlo io, perché lo farai tu col nostro straordinario ospite. Però prima di presentarlo volevo dire qualcosa sulla versione è della banda Roncati, un collettivo musicale bolognese nato nel 92, tuttora attivo, per opera di un piccolo gruppo di musicisti. Perché banda Roncati? Perché tutto nacque da un'irruzione nell'ospedale psichiatrico Roncati del capoluogo emiliano-romagnolo, da qui il nome. Questa è una versione appunto bandistica, fiati, percussioni, però anche metallurgica, se vogliamo, con un arrangiamento realizzato da Stefano Zorzanello, il sassofonista della banda. E perché, un altro dettaglio importante, questo brano fa parte di un album tributo intitolato Stormy Suite, che fu realizzato da gruppi e associazioni della zona più o meno di Bologna, ma non solo, a fine anni 90, ma poi insomma le solite traversie discografiche, fu pubblicato solo nel 2009, quindi 10-15 anni dopo, dalla piccola etichetta Erosha, per la quale, aneddoti su aneddoti, sempre negli anni 90 esordì su album Paolo Angeli. Sono tantissime le cose da raccontare, e ne parleremo con il nostro ospite, che è appunto Franco Fabri, colonna portante, come già sapete, degli Stormy Six. Vi dico anche un'altra cosa, che proprio ora, per l'ottantesimo della liberazione, è uscito da poco per Derivi e Approdi un bel libro di Alberto Gagliardo intitolato Come l'acciaio resiste alla città, appunto uno dei versi della canzone Stalingrado che abbiamo appena sentito nella versione della banda Roncati, sottotitolo Viaggio nella liberazione con gli Stormy Six. È uscito in questo 2025 con una prefazione di Mimmo Franzinelli e una postfazione proprio di Franco Fabri, e che cerca di riflettere sulle memorie, le celebrazioni della resistenza e che cos'è la resistenza oggi, a 80 anni appunto da quell'aprile 1945. Noi però, visto che il tempo è tiranno, andiamo subito a bomba con un brano originale di quel disco, Nuvole a Vinca. Loro sono gli Stormy Six. Thank you. castagni passano, nembici ricumuli, nubi bianche, nubi nere, qualche vecchio sa vedere quale porta rondini, quale porta grandine, quale porta tuoni e lampi, quale acqua per i campi, sulla linea gotica anche un ragazzino sa che la nube sui tornanti al paese porta pianti, al paese porta pianti. Questo è uno dei brani di questo fantastico, indimenticabile album degli Stormy Six, che compie appunto un cinquantesimo, i primi 50 anni. Nuvole a Vincada, ovviamente un biglietto del tram. E oggi come ospite abbiamo con noi, ed è un grandissimo onore, Franco Fabbri, che degli Stormy Six è stato non solo un membro, ma davvero una colonna portante, musicologo, già professore di storia della musica alle università di Torino e Milano. Do subito il benvenuto e buon pomeriggio a Franco Fabbri. Buongiorno, grazie della presentazione molto generosa. No, al contrario, abbiamo dovuto, Franco, riassumere le tantissime cose che hai fatto in tutti questi anni, insomma, ci porterebbe via tutta la puntata. Ascolta, iniziamo da qui. Insomma, com'è pensare che ha già compiuto 50 anni un biglietto del tram? Come la stai vivendo tu questo anniversario importante? Beh, fa un certo effetto pensare che siano passati già 50 anni, perché molto a lungo il biglietto del tram e quell'insieme di canzoni, diciamo, ha fatto parte anche del mio presente, perché poi col gruppo abbiamo continuato a suonare regolarmente fino all'inizio degli anni 80 e poi abbiamo ricominciato ancora occasionalmente a fare dei concerti. Quindi queste canzoni facevano parte della mia vita musicale. Del resto non molto tempo fa ho fatto io un concerto a Genova all'interno di La Storia in Piazza, che è un festival della storia che si svolge a Genova, e ho cantato anche canzoni di questo, era una specie di conferenza concerto, ho cantato anche canzoni da biglietto del tram, quindi questi 50 anni mi colpiscono nel momento in cui scade proprio l'anniversario, che però in fondo io sono sempre stato contrario agli anniversari, a volte mi sono messo nei guai professionalmente perché ho protestato con questa pratica, diciamo, di celebrare gli anniversari, di farti ascoltare Mozart, Beethoven, Gershwin fino alla nausea perché è l'anniversario, però vabbè, facciamo un'eccezione per gli Stormy Six. Facciamo una piccola eccezione, lo merita questo disco. Ascolta, il disco è uscito lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, nel marzo del 1975. Sì. Stalingrado e la fabbrica in realtà erano nati uno o due anni prima, tra il 73 e il 74. Ecco, quando è nata, quando e come è nata, meglio dire, l'idea di un concept album interamente dedicato alla lotta di liberazione dal nazifascismo? E anche, tra l'altro, come è avvenuta, no, la scelta delle figure, degli eventi su cui vi siete poi soffermati in questo disco, e penso anche all'eccidio di Vinca che abbiamo appena ascoltato, ma se no, per nominarne, sì, il chimico e partigiano Gianfranco Mattei. Ecco, e tutto questo anche, lo dico e qui chiudo, no, pensando, ora siamo all'ottantesimo dalla liberazione, ecco, all'epoca erano i 30 anni della liberazione, come era vissuto, sì, quell'anniversario in un contesto, voglio dire, ben diverso da quello attuale, in cui ancora no, degli ex partigiani avevano un ruolo pienamente attivo nella vita politica del paese, lo stesso sindaco di Milano, il partigiano Aldo Agnasi. Sì, certo, mi ricordo quel rapporto con i partigiani di noi che avevamo intorno ai 20 anni, insomma, di un rapporto di grande stima e ammirazione, molto diverso dal rapporto che oggi i ventenni hanno con quelli, diciamo, di equivalente distanza nelle loro generazioni. Potrei dire, ma forse esagerando, che l'anniversario, in questo caso il trentennale, è stato un po' una coincidenza, nel senso che come gruppo lavoravamo sui temi dell'antifascismo e anche della storia nelle canzoni già da prima, e probabilmente il disco avrebbe potuto anche uscire se non nel 73, già nel 74, perché Un biglietto del tram fu ritardato molto a lungo perché gli Stormy Six avevano un contratto con una, diciamo, mini major italiana, che era l'Ariston, la casa discografica di Ornella Vanoni e di altri, che ci aveva permesso di fare un album come L'Unità, uscito nel 1972, che includeva delle canzoni che parlavano della storia del risorgimento, diciamo, nell'epoca immediatamente successiva all'unità, quindi 1861-63. Abbiamo preso degli episodi del cosiddetto brigantaggio meridionale, degli aspetti anche parzialmente di ribellione, di guerra civile che c'erano stati nell'ex regno delle Due Sicilie, ne avevamo fatto delle canzoni, era venuto un semi concept album su quell'argomento che aveva avuto un certo seguito e che ci aveva permesso finalmente anche di focalizzare un po' lo stile del gruppo di quell'epoca. Grazie anche a quelle canzoni come Ponte Landolfo, Garibaldi, Tre fratelli contadini di Venosa, eccetera, abbiamo cominciato anche a fare concerti, perché fino ad allora gli Stormy Six erano quasi un gruppo discografico e basta, non avevamo molte occasioni di suonare dal vivo, e invece in seguito all'uscita di quell'album cominciamo a suonare parecchio in giro per l'Italia. Oltre alle canzoni di quell'album suonavamo e cantavamo canzoni della tradizione popolare, canzoni della resistenza o canzoni politiche contemporanee. L'album successivo, sempre realizzato per quella stessa casa discografica, fu una raccolta di canzoni di Woody Guthrie, di Mikis Theodorakis, di Ewan McCall, di Fausto Amodei, insomma una raccolta delle canzoni che di fatto erano il nostro repertorio e che anche all'epoca si sentivano nei concerti, nelle fabbriche, nelle scuole occupate e così via, a cui partecipavamo anche noi. E proprio nell'occasione in cui pubblicammo quel disco, che si intitolava Guarda giù dalla pianura, come un canto dell'occupazione delle fabbriche degli anni venti, scrivemmo fra le note di copertina che il nostro prossimo lavoro sarebbe stato un ritorno alle canzoni scritte da noi e di argomento storico, ma a questo punto basate sulla storia della resistenza e della liberazione. Questo era facile scriverlo perché in realtà avevamo già cominciato a scrivere quelle canzoni. Come hai accennato, Stalingrado e la fabbrica erano già nate nel 1973. Però poi, anche se noi continuavamo a scrivere canzoni nuove su diversi argomenti, la casa discografica rimandava e si capisce che aveva delle incertezze. All'epoca alla RAI esisteva una commissione d'ascolto che era molto, diciamo, efficace nel censurare le canzoni che non andavano per qualche ragione. Le nostre furono tutte censurate. E quindi c'era anche un po' un atteggiamento di tenersi buona la RAI, certo. No? Quindi non mandiamo a questa commissione d'ascolto un disco troppo politico, perché poi risulteremo antipatici a quelli della RAI, certo, che magari, certo, ci bocceranno delle canzoni di altri cantanti, eccetera. No? Franco, infatti, che nasce la cooperativa L'Orchestra, giusto? Sì, anche in questo caso non posso dire che si tratti di una coincidenza, se lo è una coincidenza fortunata, nel senso che verso la fine del 74, dopo una serie di incontri e anche di concerti organizzati insieme con parecchi altri musicisti che agivano soprattutto nell'area milanese lombarda, decidemmo di fondare un'organizzazione che all'inizio doveva essere soprattutto mirata a coordinare il lavoro di questi gruppi e a gestire le loro agende, anche in parte con una funzione sindacale, perché era un momento in cui il circuito dei festival, dei partiti, delle manifestazioni, eccetera, era diventato uno dei circuiti principali per la musica in Italia, ed era abbastanza inquinato da un trattamento non proprio onorevole nei confronti dei musicisti militanti, per cui se in una di quelle occasioni lì arrivava il cantautore che si era visto in televisione, che stava vendendo centinaia di migliaia di dischi, veniva trattato con tutti gli onori, e anche veniva pagato abbondantemente. Se arrivava il gruppo di militanti che arrivavano lì anche per passione e impegno politico, proprio in quanto tali dovevano suonare gratis, non c'era la corrente, se pioveva non c'era il tetto sopra il palco. Quindi all'inizio l'orchestra era una specie di sindacato per stare dietro a queste giuste lamentele. La coincidenza a cui accennavo è che a un certo punto pensiamo che forse potrebbe essere l'orchestra a pubblicare i nostri dischi, e lì si apre una trattativa con la casa discografica, con l'Ariston, che alla fine cede. Quindi c'è un accordo per cui lasciano liberi gli Stormy Six dal loro contratto, a patto che gli Stormy Six cedano ancora, continuino a cedere le edizioni all'Ariston. E quindi l'orchestra diventa la casa discografica non solo degli Stormy Six, ma anche del gruppo folk internazionale fondato da Monio Vadia e del jazz, molti esponenti del jazz italiano di quel periodo e così via. E da lì poi tutti gli album successivi degli Stormy Six, perlomeno in quel periodo, sono stati pubblicati dall'orchestra. Ascolta, passando dal lato più prettamente musicale, Un biglietto del tram ha un suono che potremmo dire quasi acustico, no? Si direbbe quasi unplugged ai giorni nostri, rispetto soprattutto alle produzioni di quegli anni, no? L'abbondanza di tastiere, sintetizzatori del rock progressivo, penso alla PFM, al Banco, no? O anche alle chitarre che dominavano, no? Le sonorità di nuovi cantori. Autori come lo stesso Finardi, che tra l'altro aveva anche collaborato con voi da giovanissimo, no? Con gli Stormy Six. Sì, certo, era venuto in studio con noi, sì. Insomma, quel suono, il suono di Un biglietto del tram, nasceva soprattutto da un'esigenza pratica, quella di portare poi, come anche ci raccontavi, la vostra musica nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche occupate, diciamo c'era anche una precisa scelta stilistica, ecco, e quali erano da questo punto di vista i vostri punti di riferimento musicale sia in Italia che all'estero? Sì, c'erano entrambi questi aspetti. L'aspetto pratico certamente aveva a che fare con l'urgenza dei concerti che eravamo chiamati a fare a volte, senza quasi preavviso. Venite, c'è una fabbrica occupata, fate un concerto, oppure c'è la campagna elettorale nella piccola piazza del paese su un palchetto di 2 metri per 2, suonate. È ovvio che non si poteva avere una grande attrezzatura, la potevamo portare in giro con un furgone abbastanza piccolo, quindi c'era decisamente un aspetto pratico, ma c'era poi un aspetto musicale fondamentale, che era il riferimento alla musica di tradizione popolare, anche se vogliamo al folk revival statunitense e a quello britannico. Per noi sia Woody Guthrie che Ewan McCall sono stati dei punti di riferimento importanti, anche proprio dal punto di vista strumentale della musica che c'era. Ricordo fra l'altro che McCall fece un concerto a Milano al Teatro Lirico nel 68 con il suo gruppo che si chiama London Critics Group, con Peggy Seeger e altri musicisti, che fu diciamo un avvenimento decisivo per sviluppare la scena della canzone politica e del folk revival a Milano a quell'epoca. Quindi eravamo un gruppo acustico. Questo non vuol dire però che non avessimo anche riferimenti in ambito rock. All'epoca ascoltavamo molto le musiche dei Gentle Giant, dei Procol Harum, dei Jethro Tull, che però i cui riferimenti sono difficili da comprendere ascoltando Un biglietto del tram, perché non c'è mai una chitarra elettrica, non c'è un basso elettrico, ci sono i violini, i mandolini e così via. Quindi è un lavoro che poi in combinazione abbiamo scoperto che anche altri avevano fatto. C'era in quegli stessi anni un gruppo in Canada che aveva un po' la stessa impostazione. Poi in fondo i gruppi del folk rock in Inghilterra, come i Fairport Convention, che erano più elettrici, se vogliamo, però che avevano molti aspetti che coincidevano con la musica che facevamo noi. Quindi se si ascoltano bene le canzoni del Biglietto del Tram, ci si trovano dentro degli elementi di scrittura che vengono dal progressive rock di quegli anni. Sì. Ci sono battute in cinque o in sette ottavi, cose di questo tipo che nessun gruppo folk o di canzone politica faceva o avrebbe fatto in Italia all'epoca. Un Biglietto del Tram, Franco, è il primo e direi forse l'unico disco di sole canzoni inedite dedicata alla lotta di liberazione in Italia. Poi è vero che soprattutto dagli anni 90 in avanti ci sono stati diversi progetti sul tema, però in genere unendo composizioni nuove e alla rivisitazione, no? Di brani tradizionali come musicisti, diciamo, del combat folk o certo rock alternativo italiano, materiale resistente del 90, sicuramente il più conosciuto. Sì. Nella notte ci guidano le stelle, più recente, premiato anche al Tenco nel 23. Ecco, quali hai apprezzato di più di questi progetti e perché? Qui la domanda te la faccio anche come musicologo, no? E attento osservatore della musica in Italia e un po' in tutto il mondo. Oddio, mi metti un po' in imbarazzo perché no, sai perché? Perché queste cose sono uscite quando poi gli Stormy Six si erano dedicati ad altri lavori, diciamo, sì. Ad altri problemi musicali e testuali da risolvere. Questo fatto che Un Biglietto del Tram sia l'unico album di tutte canzoni nuove mi ha colpito quando me l'ha raccontato Alessio Lega, e io non a dire la verità non me ne ero accorto, cioè mi ero accorto sì che le nostre canzoni erano riprese da altri, perché ad esempio i Gang hanno preso, sì, Dante di Nanni, i Franti anche avevano preso Dante di Nanni, altri gruppi avevano ripreso Stalingrado e così via. Però non mi ero mai concentrato sul fatto che in realtà noi eravamo stati gli unici a decidere proprio formalmente, dandoci un compito, un obbligo autoinflitto, di scrivere tutte canzoni nuove su personaggi o episodi specifici della Resistenza, anche con una cronologia, perché poi le canzoni del Biglietto del Tram sono in ordine cronologico, cioè sì, vanno da Stalingrado a Piazzale Loreto. E quindi in quell'ambito lì abbiamo cercato gli argomenti. E ci siamo fatti aiutare anche dalla storiografia, nel senso che il testo di Dante di Nanni, scritto da Umberto Fiori, riprende il racconto della vicenda di Dante di Nanni che fa Giovanni Pesce in Senza Tregua, che è il suo racconto della lotta partigiana, dei GAP. La Fabbrica la scrissi avendo sotto mano la storia del Partito Comunista Italiano di Paolo Spriano. Era del resto una pratica che era già stata inaugurata per l'album del 71-72, L'Unità. Ad esempio la canzone Ponte Landolfo, sulla strage di Ponte Landolfo del 1861, è presa con citazioni letterali dai dibattiti parlamentari di quell'epoca, dalle cronache giornalistiche, eccetera. Un metodo di scrittura che funzionava. Altri documenti, ad esempio, sono quelli che ci hanno portato alla canzone Gianfranco Mattei sul chimico e partigiano, sì, perché in quel caso fu proprio la vedova di Mattei che ci fece avere del materiale storico dal quale riprendere appunto il racconto sulle imprese di Mattei e sulla sua morte per opera dei nazisti a Roma. E poi anche altre, cioè ci sono altre suggestioni letterarie anche che hanno poco a che fare con la Resistenza, come la canzone La Sepoltura dei Morti, che si basa sulla famosa poesia di Elliott. Ecco, quindi queste erano un po' le fonti. Sì, dicevi una cosa interessante, no, su poi gli anni successivi degli Stormy Six, no? Perché poi insieme ad Umberto Fiori, dopo Un biglietto del tram, scriverete insieme Arrivano gli americani, no? Che fa un po' da ponte verso l'evoluzione successiva del gruppo, che arriverà poi fino a Macchina Maccheronica, con una fusion, diciamo un po' così, di jazz radicale, musica popolare e avanguardia, e un approccio quasi teatrale, molta autoironia. Quello che ti volevo domandare era, da una parte c'era molto dell'influenza molto milanese del cabaret dei Gufi, di Iannacci, del gabber più giocoso in questa anche evoluzione degli Stormy Six, e dall'altra come reagiva, visto che parlavamo prima dei concerti, alla vostra evoluzione quella fetta di pubblico che, diciamo, si aspettava solo o quasi solo Stalingrado e Dante Di Nanni? Ma diciamo che le modalità della reazione erano varie. Per un certo periodo, purché suonassimo Stalingrado, La Fabbrica e Dante Di Nanni, tutto il resto andava bene. Poi è arrivato il momento in cui non abbiamo più suonato quelle canzoni. Sì. E quello è il momento in cui forse più che altro ci spostiamo a suonare all'estero, in Germania, in Francia, anche in Inghilterra. Entriamo in contatto con gruppi di questa organizzazione Rock in Opposition, che abbiamo contribuito anche a creare assieme agli Henry Cow, agli Etron Fu e altri gruppi così. Diciamo che ci sono vari aspetti che concorrono anche in questo caso ai cambiamenti. Uno è che dopo il 75-76 la funzione di controinformazione delle canzoni è sempre meno evidente, diciamo, perché nascono molti giornali della sinistra extraparlamentare, nascono le radio libere, e quindi diciamo il compito di questo gruppo che da Milano andava a Carife in provincia di Avellino e cantava le canzoni di resistenza e in un certo senso portava le lotte operaie studentesche di Milano nel resto d'Italia, questa funzione comincia a sfumare, perché certo, altri organi, diciamo, provvedono a svolgerla. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è naturalmente l'aspetto musicale, di un effettivo progresso, nel senso che man mano è sempre più una sfida scrivere delle cose più elaborate, che anche in questo caso cercano di dire e di raccontare in un modo più complesso, diciamo così. È vero che Arrivano gli americani è parte di questo processo, pur essendo appunto una canzone del biglietto del tram, però era una canzone che importava nel suo linguaggio elementi, se vogliamo, della musica modernista, da Weil a Prokofiev, che in quel momento lì affioravano anche in altre canzoni del biglietto del tram. Ad esempio la canzone Un biglietto del tram, testo di Fiori, musica di Tommaso Leddi, ha delle parti strumentali delle quali anni dopo un amico, Alessandro Carrera, ci disse: ma vi siete accorti che assomiglia al quartetto numero 8 di Shostakovich? Che noi non avevamo assolutamente ascoltato. Però, guarda caso, il quartetto numero 8 di Shostakovich dedicato alle vittime del fascismo e della guerra. Sì, sì. Quindi ci sono a volte delle coincidenze. Guarda, una domanda che so essere enorme, ma visto che siamo un po' in chiusura di questa chiacchierata, se riesci a riassumerci il tuo punto di vista, che riguarda Milano, ossia Un biglietto del tram, lo dicevi anche tu prima, parte da Stalingrado per arrivare in Piazzale Loreto. Ecco, qual è stato il rapporto degli Stormy Six con la loro città Milano? E qui aggiungo anche, tenendo conto di quello che è successo dopo quegli anni 70, no? Gli anni del riflusso, gli anni della Milano da bere, di Tangentopoli, del leghismo e del berlusconismo rampante, insomma, cosa rimane tra l'altro, ecco, di quella città che voi avete vissuto nei primi anni 70? Non penso che rimanga molto, purtroppo. Ci sono stati, come hai suggerito, cambiamenti sociali, culturali, soprattutto politici, enormi. Noi vivevamo in una città dove quasi non si poteva uscire alla sera, non perché fosse pericoloso, ma perché non c'erano luoghi dove andare alla sera. No, c'era un'osteria sul Naviglio che restava aperta un po' fino a tardi, ma altrimenti il nostro intrattenimento era costituito dal collettivo del movimento studentesco in statale. Uscendo di lì si tornava a casa. Dopo diventa invece la Milano dei mille locali, molti dei quali fondati da persone che erano cresciute nell'organizzazione dei festival della sinistra, dei ristoranti con le salsicce, dei cocktail venduti per raccogliere fondi per il gruppo, per il partito, e che accolgono, diciamo, questo liberi tutti in cui ognuno pensa a se stesso e apre un locale. Se mi chiedi come questo ha pesato su di me, è stata una trasformazione improvvisa, perché noi a un certo punto come gruppo abbiamo cominciato a essere lontani dall'Italia per molti mesi all'anno. In una strana situazione, perché eravamo accolti soprattutto in Germania, nelle due Germanie, devo dire, anche nella DDR, come un gruppo che era rappresentativo della politica italiana in quel momento, ma in realtà la politica in quel momento, la politica italiana, andava in tutt'altra direzione, andava verso Berlusconi. E quindi poi, quando il gruppo ha smesso di circolare fra 1982 e 1983, ci siamo ritrovati come forse pochissimi altri milanesi si sono ritrovati, cioè come se il cambiamento fosse avvenuto in un giorno. No? Come se fossi passato dai cortei di 100.000 persone per la morte di Roberto Franceschi alle serate della Milano da bere. Quello è proprio una svolta storica, quella tra fine 70 e metà 80, sì, è su cui ancora forse c'è ancora molto da riflettere. E Franco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero tantissimo di averci fatto compagnia quest'oggi qui a Zibaldone, e ci andiamo ad ascoltare, dopo esserci salutati, 8 settembre, ovviamente sempre da Un biglietto del tram. Un abbraccio grande e mi auguro a prestissimo. Grazie, a presto, ricambio l'abbraccio. Sulle rotaie vestito in borghese cammina e canta piano una canzone per calmar la confusione che ha in testa. Un soldato, un ufficiale, dentro quel pigiama grigio, quanto vale? Thank you. Questo è il secondo brano che ci ascoltiamo da Un biglietto del tram nella versione originale 1975, gli Stormy Six, Banzo, 8 settembre, una data ovviamente fondamentale anche nel racconto che fanno della resistenza agli Stormy Six. Sì, è il brano che chiude il lato A dell'album e descrive sostanzialmente, l'avete appena ascoltato, la situazione di smarrimento all'indomani dell'armistizio, l'incertezza su cosa potesse succedere nel futuro immediato e l'orrore davanti agli occhi dei soldati che si trovavano di fronte alla scelta se decidere di andare a combattere con i partigiani. E è un brano che oltre alla versione su disco è anche disponibile una versione live contenuta nella raccolta Megafono uscita a fine anni 70, che è interessante perché non è semplicemente un'esecuzione del brano in quanto tale, ma una sua reinterpretazione molto più lunga. E insomma, un gruppo che suona così bene, succede sempre qualcosa di interessante. Ecco, i brani più famosi di questo disco, come Stalingrado o Dante di Nanni, ve li facciamo sentire non nella versione degli Stormy Six. Abbiamo aperto, lo avete sentito, con la banda Roncati all'inizio, la sua versione molto particolare di Stalingrado. Nel 2020, rinchiusi in lockdown, la stanza di Greta, band che abbiamo seguito fin dagli inizi qui a Zibaldone, ha inciso questa bellissima versione di Dante di Nanni, che probabilmente è uno dei vertici emotivi dell'album, no? Canzone dedicata a questo giovane gappista torinese che la notte del 17 maggio 1944 riuscì a resistere alla cattura da parte della polizia e degli sgherri fascisti dopo un attentato a un'antenna radio. Andiamocela a sentire e poi rientriamo qui per gli ultimi minuti che ci restano di questa puntata di Zibaldone, la stanza di Greta. Traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla garibaldina. Il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia, la vita è dura per Dante. Prende il treno e c'è odore di porcile sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà Dante. Passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante. Metropolitana che sanguinava forte sorrideva. Su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante. Da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo, e ancora non si sentono tranquilli perché sanno che gira per la città Dante di Napoli. Eh sì, è molto bella questa versione banjo registrata ciascuno della sua cameretta in quarantena. In quarantena, spiegavano, no, i membri della stanza di Greta. È una canzone che è un monito, no? Un richiamo alla responsabilità, alla difesa delle libertà democratiche, appunto con il simbolo di Dante di Nanni e quello che fece in quei terribili giorni della resistenza. Ce ne furono altre versioni cover di questa canzone, quella dei Gang, quella dei Franti, ne parlavamo anche con Franco Fabri. Banjo, noi siamo davvero agli sgoccioli, abbiamo giusto il tempo per lanciare l'ultimo brano e torniamo a bomba con un'altra canzone originale di Un biglietto del tram degli Stormy Six. Sì, che non è la conclusiva title track, ma è il penultimo brano, La sepoltura dei morti, che cita La terra desolata, The Wasteland, sì, di T.S. Eliot, il poemetto del 1922, quindi riferimenti altissimi e le attese sono rispettate. Il brano inizia con i versi Il mese di aprile fra tutti è crudele, sui morti fiorisce il lillà, però sposta il contesto del brano dalla Londra nell'immediato primo dopoguerra all'Italia degli anni 70, con questa umanità ignava che rimpiange gli anni del boom, il nostalgismo è un male di tutte le epoche, e rimpiange quei tempi anche perché i morti della violenza nazifascista restavano giù, quindi favorendoli nella loro scelta o non scelta dell'ignavia, ecco. Ed è un'ignavia, ed è un brano comunque bellissimo per chiudere questa puntata. Eh sì, come tutto questo album. E noi con questo vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana e soprattutto un buon ottantesimo della liberazione, una festa importante soprattutto per quello che sta succedendo nel mondo, non c'è bisogno di dirlo, quindi pensiamo all'importanza di questa giornata e a quello che ci può ancora insegnare. Niente di più, niente di meno. Banjo, buon fine settimana anche a te. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.56, diceva tutti i venerdì: i fascisti di ogni genere Foggia farebbero ridere, poi purtroppo però quando vanno al governo non c'è più nulla da ridere. Eh no, Stormy Six, La sepoltura dei morti, bye bye, buon venerdì sera, buon 25 aprile. Il mese di aprile fra tutti è crudele, sui morti fiorisce il lillà. L'inverno ha sepolto la loro memoria, lasciando soltanto pietà. E adesso una vita è una faccia ingiallita, è solo una fotografia. La morte non vale nemmeno il giornale che leggi e che poi butti via. In mezzo al biliardo tre morti ammazzati, tu segni 8 punti per te. Continui a parlare di cronaca nera, leggi bevendo il caffè. Nel 64 era tutto più bello, ma quello era l'anno del boom. Guidavo nel vento la nostra 600 e i morti restavano giù. Al mattino sotto l'insegna del tram ho riconosciuto un nostro vicino che gioca a biliardo nel